con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Parliamo dei piedi che corrono, in modo particolare dei piedi del runner, ma non solo, parleremo anche di alluci. Non esiste solo l'alluce valgo, c'è anche l'alluce rigido, lo sapevate? E di quella spina così dolorosa. Chi di voi ha provato le spine del riccio? Beh, provatele, pensare il dolore della spina di un riccio, ma localizzatelo nel cuore del tallone. E di tanto altro ancora, parliamo naturalmente dei nostri piedi. In studio con me un grande esperto, il dottor Federico Usuelli. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Responsabile dell'ortopedia della caviglia e del piede. Magari facciamo anche un piccolo escursus sulla caviglia all'Humanitas San Pio X di Milano. Dottor Usuelli, iniziamo a parlare del piede di chi corre, non solo di chi va di corsa, ma proprio di chi corre, perché il piede di chi pratica la corsa, del runner, come vengono chiamate, ha delle caratteristiche, delle sollecitazioni particolari. Io penso che sia importante, e non voglio annoiarvi, ma un tema che secondo me è appassionante, riflettere sulla biomeccanica del piede. Sì. Cioè, ogni sportivo corre, ma qualcuno di essi ha il piede cavo, qualcun altro ha il piede piatto. Piede cavo mi espone a determinati tipi di sovraccarico, il piede piatto ad altri tipi di sovraccarico. Penso che questo sia un tema che nel tempo si è approfondito. Oggi qualsiasi runner esperto sa che esistono calzature da pronatore, cioè calzature che compensano questo aspetto nella suola. Pronatore vuol dire un paziente che ha il piede piatto, e calzature non da pronatore, quindi da paziente supinatore. Quindi io penso che la prima attenzione che debba avere un runner è scegliere la scarpa giusta. Seconda attenzione che deve avere un runner, ne parlo spesso sul mio sito, quando incontro i miei pazienti, è capire come è fatto il piede, perché è dalla conoscenza che nasce davvero la prevenzione. Come faccia un piccolo bignami. Allora, se noi pensiamo al piede, dovremmo pensare al piede come una marionetta. La marionetta è lo scheletro e i cordini che lo muovono sono i muscoli tendinei che dall'alto, cioè dal ginocchio, scendono e lo guidano, proprio come se fosse una marionetta. E questo ci deve far riflettere, perché? Perché un runner sollecita proprio questi cordini, quindi è importante la biomeccanica, ma l'altro aspetto importante è dare fiato, dare riposo a questi cordini, che sono muscoli che diventano tendini, e quindi non dimenticarsi lo stretching, soprattutto lo stretching della muscolatura posteriore, per esempio del tricipite, al termine della propria attività. Quindi questo penso sia prevenzione. Le scarpe quindi corrette, fai stretching, salva il tuo piede. Direi che è uno slogan che mi piace. Quindi uno stretching importante prima, ma lei ha detto soprattutto dopo l'esercizio. Secondo me è molto importante dopo, perché significa resettare lo stimolo della fatica, resettare lo stress biomeccanico che il piede ha avuto. Quindi io lo consiglio ai miei pazienti soprattutto al termine della propria attività. Dottor Usuelli, quali sono i dolori che un runner deve sapere individuare e riconoscere per non trascurare e per non rimanere al palo? Il problema principale è il tendine d'Achille. Eccolo, è il mio tendine preferito. Sa perché? Perché così uno se lo può vedere massaggiare un po'. E qua è carino, però ci dà un sacco di problemi. Ecco, direi che soprattutto in un'età tra i 30 e i 50 anni il tendine d'Achille può essere davvero fonte di problemi. E quindi è importante anche dare il giusto peso ai problemi. Quali ci devono preoccupare e quali non ci devono preoccupare. Il tendine d'Achille... Intanto localizziamolo, è il più conosciuto, con questo nome così importante, però... Intanto è quel tendinone, possiamo chiamarlo così. Direi che il tendine più lungo e più forte del nostro corpo, quindi il tendinone se l'è guadagnata. Ecco, il tendinone che è dietro che unisce il polpaccio al calcagno. Ecco, questo tendine, proprio perché ha delle caratteristiche anatomiche particolari, può avere dei difetti di vascolarizzazione che si manifestano classicamente tra i 30 e i 50 anni. Come ce ne accorgiamo? Un dolore a livello metà della gamba, un tendine che tende a rigonfiarsi. Ecco, questa è la famosa tendinopatia non inserzionale. Inizialmente al suo esordio può non essere particolarmente dolorosa. Ma posso avere anche male al polpaccio? Sì, può darti anche una sensazione di crampi al polpaccio o dolore al polpaccio. Eccola. Ed è quella che però ti espone a un grande problema, che è il rischio di rottura del tendine d'Achille. Ecco perché è importante in questi casi una diagnosi precoce, perché oggi la medicina rigenerativa offre delle soluzioni che possono rallentare o allontanare questo problema di rottura del tendine d'Achille. Al contrario, quando io ho dolore basso, che è un dolore più classico per il runner, cioè il dolore d'attrito, dottore, mi sono cambiato le scarpe e ho la sensazione che il calcagno sfreghi sull'aspetto posteriore della scarpa. Come parlano, come descrivono bene. In effetti si dice che ascoltando il paziente sia fatta quasi tre quarti di diagnosi. Direi che nel mio lavoro succede spessissimo. Va bene, mi scusi, l'ho interrotta e lei le dicono così, che scarpa sfrega. Questo è più un dolore da sfregamento, questo può essere più doloroso del primo problema di cui parlavamo, preoccupa a volte di più il paziente, ma non lo espone a un rischio aumentato di rottura. Quello che lo espone ovviamente è il problema. Questo problema ovviamente può essere curato prima con dettagli banali, cioè guardare le calze, perché secondo me è fondamentale non avere una calza che sfreghi l'elastico delle calze. Lo so che sembra una banalità, ma l'elastico delle calze fa la differenza perché evita lo sfregamento. Poi, quando i dettagli diciamo più banali sono stati osservati e il problema non si è risolto, allora arrivano in nostro aiuto delle terapie fisiche, quindi per esempio l'onda d'urto, per esempio la tecarterapia, hanno tutte le funzioni di dare uno stimolo di ipervascolarizzazione, cioè di portare più nutrimento a quell'area e allo stesso modo di controllare la sintomatologia dolorosa. Quando le terapie fisiche non sono efficaci, secondo me in questo caso non c'è un ruolo rilevante per la medicina rigenerativa, perché qui non devo cercare di rigenerare, ma devo cercare di portare via una fonte di attrito. E quindi quando le terapie fisiche falliscono, qui subentra un'indicazione di tipo chirurgico, che oggi può davvero essere molto poco invasiva, perché esistono metodi endoscopici che permettono di togliere quest'osso in eccesso evitando l'attrito, e comunque esistono metodi innovativi che permettono di evitare lo scollamento tendineo. Perché vedi, il problema in passato nel trattare questo tipo di pazienti era che la gran parte dei trattamenti chirurgici richiedevano lo scollamento completo del tendine e la reinserzione. Questo implicava una difficoltà poi nel recupero. Oggi tutto questo è evitabile nella gran parte dei casi. Quindi il tendine lo restituite nuovo. Mentre, è una bella scommessa, eh? mentre invece la medicina rigenerativa va bene quando il dolore è in alto. Secondo me è indicato in questi casi, perché lì è un fatto degenerativo e quindi il percorso che voglio invertire è la degenerazione. Quindi non è vero, come si dice, guarda, che il tendine d'Achille si rompe all'improvviso, si sente un frutto e il tendine parte. Ha dato dei segnali e noi non li abbiamo colti. Il più delle volte è così. Perché poi ci sono persone che raccontano, guarda, ero lì, camminavo, ho messo giù il piede, sono sceso dal marciapiede e mi è partito il tendine. E ho sentito un calcio da dietro e invece nessuno era dietro di me. Ecco, secondo me nella gran parte dei pazienti, che siano atleti o pazienti normali, spesso ci sono dei sintomi di tendinopatia non inserzionale trascurati oppure non individuati. Ma è vero che il tacco 12 mette a rischio la salute del tendine o una bufala? In questo caso direi di no, perché il tacco 12 lo fa respirare eventualmente, cioè ogni calzatura 12, in equino 8 anche, 12 magari è un eccesso, però diciamo ogni calzatura in equino riduce lo stress sul tendine d'Achille. È vero che lo toglie dal tendine d'Achille e lo porta sul pezzo davanti del piede. Ed è lì che io vorrei arrivare, infatti tra poco ne parliamo. Alluce, non solo alluce valgo, ma c'è anche l'alluce rigido. Adesso tra poco il dottor Usuelli ci darà delle indicazioni per riconoscerla, ma soprattutto attenzione, non è sempre solo la cipolla a fare la differenza, ma dei segnali ci possono arrivare da altre parti del piede e non solo. Perché reggono l'intero peso, perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi, perché sanno correre sugli scogli e neanche i cavalli lo sanno fare, perché portano via, perché sono la parte più prigioniera di un corpo incarcerato e chi esce dopo molti anni deve imparare di nuovo a camminare in linea retta, perché sanno saltare e non è colpa loro se più in alto nello scheletro non ci sono ali, perché sanno piantarsi nel mezzo delle strade come muli e fare una siepe davanti al cancello di una fabbrica, perché sanno giocare con la palla e sanno nuotare, perché per qualche popolo pratico erano unità di misura, perché quelli di donna facevano friggere i versi di Pushkin, perché gli antichi li amavano e per prima cura di ospitalità li lavavano al viandante. Riprendiamo con un breve estratto di Elogio del piede di Henri De Luca, letto dalla voce del nostro Mario Nutarelli. E nonostante questo c'è qualcuno che li chiama estremità, dottor Usuelli, e direi che questo è un termine che sta ai nostri piedi assolutamente stretto, che non rende giustizia, come a dire, non calza. Ma dottor Usuelli, mi fermo qui perché noi avevamo un appuntamento con i nostri amici per parlare di alluce. Abbiamo fatto un po' anche un elogio del tendine d'Achille, che è il tendinone. Beh, l'alluce è il dito, è il re delle dita del piede, ed è un po' come succede con il pollice, il dito che può darci più problemi per una serie di ragioni, perché appoggia e non solo. Uno dei problemi più frequenti che vengono portati all'attenzione del medico è l'alluce valgo, ma attenzione, noi tendiamo a farci autodiagnosi e quindi andare dal medico quando sentiamo un dolore o vediamo il formarsi di questa cipolla, ma bisogna saperla più lunga, dottor Usuelli. Infatti, ecco, se volete stupire il vostro ortopedico, prima di andare a trovarlo guardate dov'è la cipolla, perché la cipolla può essere all'interno del piede e in quel caso classicamente è un alluce valgo, dove vedrete una deformità proprio dell'alluce, quindi vuol dire l'alluce che tenderà ad andare verso il secondo, verso il terzo dito, sovrapponendosi o sottoponendosi. Al contrario, alcune volte potrete osservare che la vostra cipolla sorprendentemente sarà dorsale, sopra. Uno zaino. Esatto, quando avete questo tipo di deformità, in quel caso è più probabile che voi abbiate un alluce rigido. Sono problemi diversi che meritano soluzioni diverse. Ora, dicevamo prima, guardiamo la cipolla, ma non soltanto la cipolla, perché anche le piccole dita ci parlano del piede. Le piccole dita, per esempio, una deformità del dito a grif. Quando noi guardiamo il nostro piede, vediamo che abbiamo un uncino e magari vediamo un callettino rosso sul dorso del dito che spesso sfrega nella scarpa e dà fastidio. Ecco, quello è il dito a grif. Un dito a grif può essere espressione di una mancata funzione dell'alluce in fase di spinta. Quindi un dito a grif può parlarci di un alluce valgo. Altro punto in più, la metatarsalgia. Guardiamoci questa volta sotto il piede e vediamo dei calli. Se abbiamo dei calli, se abbiamo, diciamo, quelle che noi medici chiamiamo iperkeratosi, che possono essere dolorose. Noi le chiamiamo duroni. Ecco. Vanno tolti, è corretto toglierli? Ma vanno tolti in alcuni casi se danno fastidio, non necessariamente, perché poi tendono a riformarsi. Sì. Quindi se non fanno male, io non consiglio ai miei pazienti di toglierli. Se danno fastidio, di tanto in tanto si possono togliere. Ecco, evitando di poi trasformare il piede in uno zoccoletto, però, fino a un certo punto. Quello oggettivamente. Quindi, anche questo, anche i duroni, i calli nella zona del metatarso possono essere un segnale di alluce o valgo o rigido. Noi guardiamo quanto è grande l'alluce e guardiamo quante sono più piccole le nostre ditina. Se l'alluce non fa una corretta funzione, obbligherà le piccole ditina a vicariare la loro funzione. Ecco perché il callo e la metatarsalgia, perché sto obbligando strutture anatomicamente più piccole a fare il lavoro dell'alluce, che diciamo fatica, e può far fatica a fare questo lavoro perché valgo o perché è rigido. Perché le dita lavorano in squadra. Esatto. E lui, l'alluce, essendo più grande, le scarica su quelle piccole, che alla fine si lamentano come cambiando forma o appunto componendo sulla base i duroni. Diamo anche le soluzioni, perché la prevenzione, possiamo parlare di prevenzione, dottor Usuelli, per questi disturbi, per l'alluce valgo e per l'alluce rigido? Allora, quando parlo di alluce valgo e d'alluce rigido, io parlo spesso ai miei pazienti di genetica e biomeccanica. Genetica vuol dire che il mio piede ha una sua strada e ha un suo destino, e spesso basta guardare il piede della mamma, della nonna, sì, o del papà. Quindi se è un marchio di fabbrica, come si dice, se tutti a casa, i nostri genitori, il nostro nonno hanno avuto l'alluce valgo, probabilmente toccherà anche a noi. Secondo me è importante capire anche che tipo di alluce valgo, perché se la mia nonna ha 90 anni, ha un'alluce un po' valgo e non le ha mai fatto male, non mi devo preoccupare. Se invece... Soprattutto sono felice di avere una nonna che arriva a 90 anni, no? Perché i geni dicono la loro. Se invece ho una storia nella mia famiglia di pazienti che hanno avuto problemi di alluce valgo, è probabile che io vada in quel senso. Ora, è importante non illudersi e fare le cose corrette. Sì. Non illudersi vuol dire non chiedere a soluzioni conservative la correzione di una deformità. Ripeto, un plantare o uno spaziatore non può raddrizzarmi magicamente un dito. Un plantare può alleviare i sintomi e far sì che io abbia bisogno di chirurgia più in là nel tempo. E questa è già una buona cosa. Direi ma sì. Se io vado in là nel tempo, mi resta solamente la chirurgia. La buona notizia è che negli ultimi anni sono stati fatti dei passi avanti importanti, tanto che è sempre un intervento, ma è una chirurgia molto più delicata, possiamo definirla così? Rispettosa? Oggi io penso che bisogna riferirsi a due grandi passi in avanti. Primo passo in avanti, il passaggio dalla chirurgia tradizionale alla chirurgia mininvasiva. Questo ha ridotto l'invasività, ha ridotto i tempi di recupero e ha permesso al paziente di rivolgersi nei confronti di questo intervento con uno spirito più sereno. Sì. Ovviamente non bisogna sottovalutarlo, cioè non è una banalità. Ciò che è mininvasivo non significa che allora è una banalità, non è come togliere un dente, ma è comunque un intervento. E questo è il primo passaggio, che io direi è cominciato a diventare popolare verso la fine degli anni 90 e è diventato davvero popolare nel 2000. Il secondo passaggio è stato quello di riuscire a dare affidabilità in termini di rischio di recidiva a questo tipo di correzione percutanea. E questo lo si è raggiunto recentemente con la possibilità di utilizzare mezzi di sintesi in associazione alla chirurgia percutanea. Parliamo semplice, mezzi di sintesi sono quelle piccole strutture che noi utilizziamo per stabilizzare la correzione. Cioè, in poche parole, il chirurgo con una piccola fresa raddrizza l'osso, lo posiziona dove vuole che sia e lo tiene fermo con questi piccoli impianti di titanio che restano completamente affondati nell'osso e che offrono garanzia in termini di posizionamento e quindi di rischio di recidiva, che era la cosa che preoccupava inizialmente quando ci si rivolgeva a una chirurgia mininvasiva percutanea tradizionale. Dottor Usuelli, quindi si tratta sempre di un intervento che ha queste caratteristiche, quindi le recidive sono molto limitate. Ma dopo quanto tempo il paziente torna in piedi e il suo piede funziona, no, perfettamente? Ci vuole un periodo di riabilitazione oppure no? Adesso, secondo me è molto importante distinguere l'alluce valgo dall'alluce rigido. Sì. Nell'alluce rigido i tempi possono essere più lunghi e la soddisfazione è anche minore perché è una lesione preartrosica. Sì. Nell'alluce valgo invece i tempi possono essere più facilmente anticipabili, ovviamente quando si corregge l'alluce da solo. Se la chirurgia dell'alluce richiede una chirurgia anche dei metatarsi vicini, quindi del secondo, del terzo e del quarto, i tempi si allungano. Ma se noi parliamo di una chirurgia esclusivamente dell'alluce, io penso che oggi i tempi siano davvero cambiati. Andiamo a definirli. La mininvasività comincia dall'anestesia, che il più delle volte è un'anestesia dal ginocchio in giù o dalla caviglia in giù. Tranquillizziamo i pazienti ansiosi, questa può essere associata a una sedazione, però è importante avere questo tipo di anestesia periferica perché offre un valido supporto anche nell'immediato post-operatorio. Passo successivo, il carico è immediato. Oggi esistono delle scarpe che permettono un carico da subito fisiologico. Per dire, nel mio team abbiamo abbandonato le vecchie scarpe talus che permettevano di appoggiare solo il pezzo dietro del piede, in funzione di una scarpa che offra la possibilità di avere un appoggio fisiologico fin da subito. È sempre una scarpa post-operatoria, ma mi offre la possibilità di un carico più fisiologico. Normalmente il paziente ha un bendaggio per 15 giorni, questo è il mio protocollo. A 15 giorni si toglie il bendaggio e si rinnova, ad un mese il paziente torna a quella che è una scarpa normale, ma non è ancora la sua scarpa ideale. Per il famoso tacco più estremo, per una scarpa esteticamente appagante, la paziente può tornare intorno ai 2-3 mesi. C'è una variabilità, dipende da paziente a paziente. Quindi è una passeggiata, non è una passeggiata, è una passeggiatina. Diciamo, va bene, mi piace come definizione. A proposito di piedi, a proposito di novità, dottor Usuelli, insieme al suo team voi avete anche un approccio molto innovativo per quanto riguarda l'artrosi alla caviglia, perché l'artrosi colpisce anche la caviglia. Intanto la persona che soffre di questo problema ha un profilo particolare che si discosta da quello tradizionale. Vogliamo tratteggiarne l'identikit? Sì, questo è un aspetto molto importante perché è un paziente più giovane, nel pieno dei suoi anni, sia in termini di vita produttiva, sia in termini di vita familiare. Noi immaginiamo un paziente trentenne, quarantenne, cinquantenne che ha... Insomma, quello della lucevalgo, diciamo. Sì. Dai, tra i 30 e i 50. Con un problema però molto più importante e invalidante. E quindi un paziente per cui può essere un problema tirare due calci al pallone col proprio bambino, può essere un problema fare una passeggiata con la propria famiglia o semplicemente fare un lavoro che richieda di stare in piedi. Questa artrosi viene in seguito, il più delle volte, in seguito a un trauma e quindi in seguito a una frattura. Io penso che bisogna capire in primis perché. Perché noi medici ci ostiniamo a dire che la caviglia è un'articolazione congruente. In parole povere, la caviglia è un'articolazione dove tutto combacia perfettamente. Se io lo lascio combaciare, non invecchia. Non sviluppo artrosi della caviglia invecchiando. Se smette di combaciare perché ho una frattura o perché ho una storia di tanti traumi distorsivi o perché ho una malattia infiammatoria sistemica. Tanti traumi distorsivi sono quelle storte ripetute, esatto, che molte persone... diciamo 8-10 in un anno trascurate per anni. Okay. Se io rientro in questa categoria di persone rischio di sviluppare un'artrosi di caviglia. Il problema vero in passato era che la soluzione all'artrosi di caviglia era quella della famosa artrodesi della caviglia, vuol dire in parole povere una fusione, incollare la caviglia a 90 gradi. Questo non significa necessariamente zoppicare, non significa necessariamente una disfunzione, ma significa impegnare in maniera maggiore le articolazioni vicine, quindi immaginiamo il ginocchio e le tante articolazioni che ci sono nel piede. Ecco perché la nostra esperienza in giro per il mondo e poi tornati a casa è stata quella di cercare di studiare e sviluppare dei metodi affidabili per preservare il movimento senza dolore nell'artrosi di caviglia. Ed ecco perché la protesi di caviglia rappresenta davvero una soluzione innovativa per i nostri pazienti, perché permette di risparmiare il movimento, di avere un passo naturale che assomiglia al passo di prima della frattura e permette, ripeto, una soluzione alla sintomatologia dolorosa. Quindi diciamo l'approccio negativo e le nostre attenzioni in termini di attività e di ricerca negli anni è stata proprio volta a aiutare i pazienti affetti da artrosi di caviglia per ritornare a fare un passo più fisiologico senza perdere il movimento della caviglia. Grazie dottor Usuelli, adesso potete continuare a correre, mi raccomando evitare le storte anche per i runner o per chi magari si fa una partita a beach volley, e se ci capitasse la famosa storta, dottor Usuelli, diamo un'indicazione per evitare che, come si dice, storta chiami storta. Riabilitiamola, quindi pensiamo prima a gestire il gonfiore, il dolore e la fase acuta e poi non dimentichiamo la rieducazione propriocettiva che è prevenzione. Vi saluto, vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 6 per iniziare la giornata insieme.